O verbero del Dio voglio dire, o verbero del Dio nostro Signore, a chi tanto ci volessi bene, che tutto lo mondo è chino di peccati. La terra non ne può più sostenere, lancia lo giancero nemico ride. Dio contro di noi è sdegnato, giorno di lampi ne posso bissare. La Virginella si consa davanti, o santo figlio, tu che fai? Non lo farà tanto, per amore a me, o farlo perché lo santa l'altra che ti dezzi. O mamma, mamma, non lo posso fare, capola la notte gli stime a Dio, le feste principali a faticare. Era padrone dei gialli del mondo, mano disprezzata e mi sonponno. Era padrone dei gialli della terra, mano disprezzata e mi sotterra. A ravaglia Gesù fa, piccele ranne tutti là. Gemerimo, gemeramo, come foglio del lavoro, come vuol nostro Signore. A me gemare come lo giuncanno, come la canna che mina lo vento. E calasse Giovanni Battista, con un libro d'oro in mano, cui in mano sto scrivendo e la bocca sto dicendo. Dicendo, peccatore o peccatrice, chissà lo verbo di Dio ma se lo dice, chi non ama se lo ha imparare. Cagliura della morte deve essere imparato con mazzi di ferro e fruste di granato. Chi non sa e non lo dice va 7 anni in cella piccia. Chi non sa e non impara va 7 anni in peccati mortali. Chi non si dice ci botto lo giorno va in paradiso con la Madonna. Chi non si dice ci botto la notte, Dio ci scancella ad ogni mala morte. Chi non si dice ci botto lo sabato e di una, guadagna 300 anni di perdono.